Investire informati. La nostra guida ai fatti finanziari del momento oggi è Monica Defend, un graditissimo ritorno, buongiorno. Grazie, buongiorno. Allora, io la dico all'inglese adesso e poi la traduciamo come sempre in italiano, questa carica, Head of Global Asset Allocation Research di Pioneer Investment, in pratica il capo staff della ricerca finanziaria in questa società. Allora, 800 24 00 24, se i fatti finanziari del momento producono nelle vostre teste, nel vostro cuore qualche curiosità, condividetela con noi e la commenteremo naturalmente insieme. Cosa fare con questo fermento sui mercati? Come investire per proteggere il capitale e magari provare a testare nuove opportunità di investimento e rendimento? Cercheremo di capirlo questa mattina. Sono scelte abbastanza difficili da fare, anche perché appunto per proteggere il capitale si cerca di andare su qualcosa di tranquillo, lo hanno sempre rappresentato questo tema di tranquillità ai titoli di Stato, e invece andiamo sempre più giù per quello che riguarda i rendimenti. Proprio stamattina abbiamo una nuova asta del Tesoro italiano che mette sul mercato BTP a 5-10 anni, quindi tra un po' vedremo quale sarà l'esito. E ieri ancora un rendimento negativo per il bot a 6 mesi, che ha testato il meno 0,25%, che peraltro non era neanche il minimo degli ultimi tempi, perché in maggio era stato toccato un meno 0,26%. Questo è un po' il presupposto delle ultimissime. Dottoressa Defend, le banche centrali, le ultime riunioni sono state molto importanti, come abbiamo ribadito più volte, con tutte le loro iniziative anche prese prima per cercare di arginare la crisi economica, in realtà a quanto pare stanno scatenando la volatilità appunto sui mercati finanziari. Abbiamo già detto che la Federal Reserve è pronta ad intervenire sui tassi presumibilmente a dicembre, mentre la Banca Centrale del Giappone ha fatto questa iniziativa straordinaria di comunicare una nuova strategia, tenere sotto controllo i rendimenti, in particolar modo dei titoli di Stato a 10 anni. Volevo anche ricordare prima, adesso è un preambolo piuttosto lungo, però ci tengo, la dottoressa Defend è stata protagonista la scorsa estate di una è stata l'unica che ha azzeccato quello che avrebbe fatto la Banca Centrale d'Inghilterra dopo Brexit. Non voglio dire donna, infatti. Esatto, a luglio ci aveva detto: ma secondo me questa riunione non interviene sui tassi, ne erano convinti tutti, forse rinvierà, lo farà dopo. Infatti l'ha fatto ad agosto e lo dobbiamo appunto riconoscere, ci piace. Perché brava. Adesso stamattina ci aspettiamo un'altra previsione, perché poi la testeremo prossimamente. Allora, tutto questo grande affare delle politiche monetarie delle banche centrali, dottoressa Defend, quanto e come deve interessarci come piccoli risparmiatori? Insomma, come possiamo analizzare tutto ciò? Le banche centrali sono state, sono e rimarranno uno degli attori principali in questo periodo di così bassa crescita e bassa inflazione. Quello che sta succedendo è che se da un lato la volontà di essere trasparenti, quindi di essere in grado di trasmettere al mercato quello che stanno facendo e perché, in modo da preservare la stabilità finanziaria, sta avendo il costo di creare delle aspettative incredibili sugli investitori, e quindi questo crea della volatilità. Adesso che la Fed alzi o non alzi, 0,25 basis point, sono proprio pochino, non cambia. E poi è stato talmente straannunciato questo intervento, da un mese all'altro cambia poco, diciamo. In un contesto comunque di tassi che sono preannunciati crescere in maniera molto lenta nel tempo, quindi davvero stiamo come investitori, come operatori di mercato, caricando troppo questi incontri delle varie banche centrali. No, tra l'altro, siccome poi lei è anche pronta ad andare a Washington la prossima settimana, glielo dirà personalmente a Janet Yellen, certo. Dovesse incontrarla nei corridoi degli spazi del Fondo Monetario. Janet, diamo un po' di chiarezza sui mercati. Vieni un po' che ti dico due cose. L'anno scorso sono inciampata addosso alla Lagarde, in effetti io sono piuttosto con la testa tra le nube, non me ne sono accorta e le sono proprio inciampata addosso. Oggi raccontavamo prima di entrare in onda un po' di scene curiose di questo che tipo, che solo noi donne siamo capaci di renderci protagoniste di tutto ciò. Comunque quello che è davvero importante è capire quale sarà la politica fiscale che verrà implementata da parte dei governi, ed è questo il fattore di blocco in qualsiasi azione di successo da parte della Banca Centrale. Quindi io non mi aspettavo... Questo è il motivo per cui è così importante questo referendum italiano, che a qualcuno possa apparire un fatto provinciale rispetto ai problemi di carattere mondiale. In realtà il tema è proprio questo paese è in grado di andare avanti con le riforme, per questo che è importante così. questo test. Ma così come le elezioni in Francia, le elezioni in Germania, le elezioni in America, non è un caso che a settembre non sia stato fatto nulla. È necessario capire quale dei due candidati vincerà le elezioni per capire quale sarà la politica fiscale che verrà implementata, perché di conseguenza ci sarà con una politica fiscale espansiva, la curva dei tassi dovrebbe ripetersi, quindi dovrebbero salire i tassi e la Federal Reserve deve essere in grado di capire di quanto, in modo da poter bilanciare in maniera esatta e intervenire sul mercato. Per quanto riguarda la Banca Centrale del Giappone, è una politica non convenzionale, davvero particolare a questo punto. Sinceramente, che una banca centrale intervenga manipolando in maniera così esplicita. Anche il suo collega che sedeva al suo stesso posto giovedì scorso ha detto la stessa cosa. Non è il tipo di mercato in cui tu vuoi operare, perché non è più un mercato libero. Insomma, le grosse critiche che sono mosse alle banche centrali è proprio la manipolazione che stanno facendo alle curve dei rendimenti. Secondo me è necessaria, perché se non avessimo avuto le banche centrali oggi non staremmo a. Però dal Giappone hanno usato un po' troppo. Hanno usato un pochino. Vediamo se poi questo servirà, certo, a far risalire l'inflazione. Allora, questa iniziativa della Banca Centrale del Giappone viene ricondotta a tutto quel gruppo di iniziative che possono ricadere sotto il cosiddetto programma di helicopter money, cioè praticamente denaro gettato addosso ai cittadini proprio attraverso un elicottero. Esatto. Quindi questa è un po' l'immagine che viene richiamata. Perché non sarebbe possibile, mi hanno detto, dottoressa Defende, che non sarebbe possibile per Mario Draghi, per esempio, fare la stessa cosa per l'Eurozona? Perché? Allora, per due motivi. Il primo di carattere legale, perché mentre l'articolo 20 dello Statuto della Banca Centrale lascia aperta la via a strumenti di controllo monetario, l'articolo 123 del trattato parla di impossibilità di monetizzare il debito sovrano dei Paesi membri, e quindi legalmente c'è un cavillo che andrebbe risolto. Non banale, peraltro. Dall'altra parte, noi non abbiamo un'unione fiscale in Europa, quindi la misura con cui questa monetizzazione possa avvenire non è argomento di facile soluzione. Quindi un esercizio intellettuale molto interessante, come ha detto Draghi, ma sicuramente ci sono degli impedimenti legali che andrebbero risolti prima di poter pensare a una soluzione del genere, alla manna dal cielo. Allora, prima delle prossime domande voglio rispondere ad un ascoltatore che chiede, non lo chiedo a lei dottoressa Defende perché qua non possiamo rivolgere questa domanda, a lei: cosa succede ai proprietari, sottoscrittori dei fondi comuni Pioneer, titolari di conto corrente Unicredit, se la stessa Unicredit dovesse vendere Pioneer, circostanza appunto che è in ballo da un sacco di tempo? C'era una trattativa col colosso spagnolo Santander che adesso non è andata più avanti, si stanno studiando nuove strade. Detto questo, l'ascoltatore rassicuro, non ne succede nulla, i fondi Pioneer continueranno ad essere gestiti dalle stesse persone, il conto corrente Unicredit poi men che mai verrà toccato, non succederà assolutamente nulla, per cui su questo mi sento io di potermi esporre tranquillamente senza dover sentire un super esperto appunto di questi argomenti. Cuore e denari. Pensavate che stamattina non vi facessi il domandone? Invece no, se volete portarvi a casa un libro di Cuore e Denari per studiare un po', per star bene, per il vostro benessere fisico ma anche economico, dovete rispondere correttamente alla nostra domanda di questa mattina. Visto che parleremo tra un attimo di petrolio e delle decisioni che sono state prese ieri ad Algeri, dove c'è stato il meeting dell'OPEC, allora lo sapete quanti sono i membri dell'OPEC, dell'associazione, del cartello dei maggiori paesi produttori? 800 24 00 24, accettiamo solamente le risposte in diretta, poi se ce ne dite anche due o tre o quattro, anche più libri vi arrivano, forse, può darsi, forse. Allora, a sorpresa, ieri, dottoressa Defende, siamo ad Investire Informati stamattina, è arrivata questa decisione di tagliare la produzione di 700.000 barili al giorno e portarla a 32 milioni di barili appunto al giorno. Si è trattato di una decisione che porta alla prima riduzione in 8 anni. Quanto è stata importante questa decisione, che in realtà alla vigilia sembrava non potesse essere più presa perché l'Iran si voleva chiamare fuori appunto da ogni scelta di questo tipo? Ma è importante nel breve termine per la possibilità e la volatilità che ha dato al prezzo del petrolio. Io rimango cauta perché ancora la quantità e quali sono i paesi, poi il diavolo è sempre nei dettagli, no? Non sono ancora chiari. Quello che stavamo pensando è che oggi abbiamo misurato con i nostri modelli era di rivedere la banda di attesa di oscillazione del prezzo che noi pensavamo stare tra i 40 e i 50 da qua. Sì. L'abbiamo rialzata da 45 a 55. Comunque il prezzo delle materie prime è fortemente guidato dalle dinamiche di delle politiche offerta, monetarie anche, no? anche dal e di offerta e di domanda, e quindi chiaramente una variazione nell'offerta che probabilmente verrà controbilanciata dall'America con una ripresa della produzione avrà un effetto. Però se questo davvero ha cambiato le carte in tavola, non mi sento di dirlo adesso. Il movimento che abbiamo osservato è per lo più dovuto a un riposizionamento di investitori che erano in sottopeso di petrolio, e quindi non avevano molta fiducia in questo meeting. Sì, perché si pensava che oramai il prezzo del petrolio fosse arrivato. Il petrolio ha offerto delle finestre di opportunità anche per noi che ci siamo giocato tatticamente durante l'estate. Però non pensiamo che ci possano essere dei grossi movimenti sopra ai 55 dollari, via. Quando parliamo di petrolio ci riferiamo al mondo delle materie prime, che è estremamente vasto. Sì. Dottoressa Defende, come si sta muovendo questo mercato? Dove sono i trend più interessanti? A cominciare da quello dell'oro, che è il tema che mediamente interessa molto i nostri ascoltatori che ci chiedono, ma insomma è il caso di puntarci su questa volatilità? Ci possiamo proteggere coprendoci un po' appunto con la materia prima? Come abbiamo parlato, ne abbiamo già parlato anche nei precedenti incontri, noi abbiamo progressivamente costruito una posizione strutturalmente in sovrappeso di oro. Il motivo è legato un po' a questo profilo di crescita e di inflazione bassi e che rimarranno tali per un periodo protratto di tempo, e dall'altro anche l'instabilità legata al settore bancario e finanziario è il cosiddetto bene rifugio, per cui averne una parte in portafoglio consente di poter giocare quelle che noi chiamiamo costruzione di portafogli a bilanciere, cioè una parte di beni rifugio e una parte un pochino più rischiosa, quindi ci permette di controbilanciare le esposizioni più rischiose, quelle che sono volte a creare un rendimento nei nostri portafogli, in un contesto di gestione del rischio totale del portafoglio. Le materie prime, così come la Cina e le banche centrali, sono secondo me i tre argomenti intorno al quale andremo a costruire le nostre scelte di investimento nei prossimi mesi. Cosa c'è in questa vostra bilancia, in quella parte che è un po' più rischiosa per voi? Nella parte rischiosa noi abbiamo tenuto conto che non ci aspettavamo e non ci aspettiamo dei mercati che partano in trend, quindi un mercato azionario che sia molto migliore di un altro, abbiamo costruito delle posizioni relative, quindi tendiamo a preferire i paesi emergenti ai paesi sviluppati, quindi vuol dire sovrappesare la Cina e l'India rispetto all'Europa. All'interno dell'Europa la Spagna rispetto alla Germania, perché la Spagna ha una situazione bancaria meno peggio rispetto a... Ma una situazione politica molto, molto precaria. Sì, ma hanno avuto un miglioramento macro rimarchevole, e sono legati ai paesi emergenti, in particolare latinoamericani, e in Brasile, Argentina e Messico abbiamo visto dei miglioramenti da inizio anno che offrono un'opportunità che ci siamo sentiti di cogliere. La cosa che crea sempre grosso dibattito all'interno delle nostre riunioni, quando dobbiamo decidere come allocare i portafogli, e l'orizzonte quando temporale. Quando lei parte con il racconto del retroscena, io mi appassiono sempre tanto. Sentiamo cosa succede nei loro comitati di investimento. Cose mai viste. No, il problema che ci siamo posti è quale orizzonte temporale dare alle nostre scelte di investimento, perché io sono 20 anni che faccio questo mestiere e l'asset allocation si faceva a 10 anni. Adesso ne no, stiamo che parlando. È il tema che suggeriamo sempre ai nostri ascoltatori: dare respiro, avere pazienza, guardare a lungo periodo e poi chiaramente diversificare. Poi però ci sono delle opportunità nel breve termine che possono essere colte. Vedi per esempio il prezzo del petrolio. Ma adesso purtroppo il nostro orizzonte di investimento è segnato dal calendario politico e non possiamo trascurare l'importanza delle elezioni americane e del calendario di elezioni europee. Quindi progressivamente il nostro orizzonte temporale si è un po' ridotto. Sui paesi emergenti, per esempio, che ringraziando il cielo sono al di fuori di questa bagarre politica che sta coinvolgendo per lo più i paesi sviluppati, abbiamo delle scelte davvero di lungo periodo. Cioè, investire in Cina significa credere che le riforme che stanno facendo, anche la spesa per investimenti e la spesa fiscale che stanno facendo, è per andare in una direzione corretta di ribilanciamento della propria economia. Quindi quella è una scelta di lungo termine, ma nel breve ci possono essere delle opportunità che vogliamo cogliere. Possono essere le obbligazioni creditizie, quindi l'investment grade, perché c'è la banca centrale europea dietro. Possono essere le valute, perché con le banche centrali così attive, per forza di cose le valute sono per loro natura la classe di attività più reattiva. Quindi sì, ci sono all'interno del nostro comitato le persone più di lungo termine, che no, noi qua dobbiamo discutere solo di quello che vediamo nei prossimi 18 mesi, però non possiamo ignorare anche le opportunità che si possono aprire nel più breve termine. Riuscite a trovare dei compromessi sereni, sì, per no, forza di certo, cose. Ma certo, sono tutte persone forza. Molto civili. Poi sono l'unica donna, per cui probabilmente per questo sono anche... Eccola la vera bilancia, non i portafogli bilanciati di prima. Allora, intanto molti ascoltatori stanno rispondendo al nostro quizzettone, che magari possiamo anche, se Carmelo mi allieta questo momento con la sigletta, possiamo anche ricordare... Abbiamo parlato a lungo appunto di petrolio, di quanto deciso ieri dall'OPEC, dal cartello dei maggiori paesi produttori. Abbiamo chiesto agli ascoltatori di rispondere all'800240024 se sanno quanti sono questi paesi in questa organizzazione, se magari ce ne volete dire sono più generosa di prima, un paio, noi ancor più volentieri vi regaliamo uno o due dei nostri libri della nostra biblioteca. Allora, andiamo all'altro tema, dottoressa Defend, di grande interesse soprattutto per i risparmiatori italiani, il tema dei titoli di Stato. Faccio un piccolo riassunto di quanto accaduto ieri. Il Tesoro ha messo in asta, per raccontare proprio l'ultimissima degli ultimi giorni, ha messo in asta 6 miliardi di bot a 6 mesi e il rendimento ha toccato il -0,25%. Non è proprio il record minimo storico su questa scadenza, perché era stato toccato a maggio scorso a -0,26,20, poi si era ripreso, era andato a -0,15, poi di nuovo è ripreso appunto la discesa, adesso ieri un nuovo test negativo. Aspetterei anche di vedere stamattina come sono andata. Ecco qua, abbiamo l'esito delle aste di stamattina, dottoressa Defend. Sono stati assegnati 4 miliardi di euro di BTP a 5 anni, il rendimento è in rialzo allo 0,28%. Per il BTP decennale, collocati 2 miliardi e mezzo, rendimento in risalita all'1,21. CCT indicizzati all'Euribor, no? Il CCT EU. 2 miliardi di euro, rendimento in lieve rialzo allo 0,33%. Ci vuole dare subito un commento rispetto a questa operazione di stamattina? Ma le aste continuano ad andare bene e a rappresentare quello che è l'investitore medio italiano, il risparmiatore medio italiano, che comunque continua a preferire i titoli di Stato a altre fonti alternative di reddito. È proprio per questo che io credo che il fai da te, men che meno in questo momento, sia una soluzione, proprio perché i rendimenti sono così bassi ed è molto difficile andare a trovare qualcosa, non dico di sicuro, ma che non mi faccia perdere in maniera contenuta. Quello che noi cerchiamo di fare è cercare appunto queste fonti alternative di rendimento, combinando i portafogli, come ci dicevamo prima, piuttosto che cercando delle classi di attività alternative alle tradizionali. Abbiamo dovuto davvero allargare il nostro universo investibile. Come ci siamo detti tante volte, se la crescita è bassa, l'inflazione è bassa, i rendimenti non possono crescere. È proprio matematica. E quindi questa purtroppo è una situazione che dovrà durare a lungo, perché non mi aspetto una grossa ripresa della crescita nel breve termine, a meno che non vengano implementate delle misure di politica fiscale volte a incrementare la produttività, a migliorare. Siamo sempre lì, però, quella gamba che manca, e finché manca tutto il resto non può ripartire. Adesso c'è il traffico. Volevo solo segnalare ad un'amica che ci chiama da Brescia, Raffaella, che ci chiede un commento sulle polizze assicurative come ambito di diversificazione per almeno la metà del suo patrimonio. Raffaella, non è la trasmissione adatta questa mattina, ma in realtà medito da un po' di tempo di affrontare proprio anche questo argomento, magari con dei promotori finanziari, con dei consulenti finanziari, che sono le persone preposte ad aiutarvi a gestire appunto il risparmio. La dottoressa Defende fa un altro lavoro, per cui non va bene per stamattina, ma Raffaella, le prometto che ci torneremo presto. Cuore e denari. Ah, me lo fanno ripetere il quizzettone. Quanti sono i paesi membri dell'OPEC? Vedo che qualcuno è andato anche molto lontano, molti state azzeccando la risposta. C'è addirittura un ascoltatore, adesso lo sentiremo se i ragazzi ce lo mettono in onda, Nicola da Bari, che ci dà anche alcuni paesi. Io proprio mi sono sbilanciata stamattina a chiedere tanto ai nostri amici. 800 24 00 24, il numero verde per voi, se volete intervenire anche sui temi di mercato che stiamo commentando questa mattina con Monica Defend, capo della ricerca finanziaria di Pioneer Investment. Allora, c'è un ascoltatore che, incuriosito da uno spot che stiamo mandando in onda, chiede quali sono le obbligazioni 7% che pubblicizzate. In realtà, a parte la pubblicità che non ci interessa, ci è capitata in mezzo alla trasmissione, noi di quelle obbligazioni lì abbiamo parlato anche ad inizio settimana due giorni fa con Pietro Poletto, appunto, di Borsa Italiana, e sono delle obbligazioni emesse dalla Banca Mondiale, espresse in real sudamericano, brasiliano, e in rand sudafricano. Però mi consente questa domanda, appunto, dell'ascoltatore di rivolgerla, di girarla anche a Monica Defend. Allora, il fatto che siano emesse dalla Banca Mondiale in qualche maniera deve farci mettere da parte la questione rendimento così alto di queste obbligazioni espresse in valuta in paesi con fermenti politici ricorrenti anche? Ma in un momento in cui ci stiamo dicendo che non esiste più il tasso privo di rischio, io non mi fiderei, non guardo solo a chi è l'emittente, che ovviamente rimane importante, ma mi farei la domanda: a fronte di un rendimento così elevato, quando i tassi sono bassi, sono addirittura negativi in certi paesi, che rischio è legato a questo rendimento? Quindi non guardiamo mai solo al rendimento, guardiamo al rendimento aggiustato per il rischio. Dentro al rischio metterei anche il rischio dell'emittente, poi facciamo le nostre valutazioni. Detto questo, appunto, sono, ribadisco, emesse dalla Banca Mondiale, certamente rappresenterà un fattore di maggior stabilità magari rispetto ad altri emittenti, però se proprio vi attira questo tipo di investimento, cerchiamo quantomeno nell'ambito della diversificazione di dar loro un piccolo spazio, no, nel portafoglio, se proprio dobbiamo bilanciare magari altre. Sì, dipende anche poi da che cos'altro ha questa persona in portafoglio. Sono denominate in valute che sono un pochino volatili, per cui attenzione. E fate attenzione poi al fatto che magari queste obbligazioni possono oscillare fino a che le detenete in portafoglio, quindi non è che le comprate e all'inizio, alla fine otterrete appunto un rendimento di questo tipo, una cedola di questo tipo, sempre, insomma, c'è variabilità. Dunque, sentiamo allora la risposta al domandone. Chi è pronta, Nicoletta? Andrei a Marisa, che ci chiama da Varese. Buongiorno Marisa, benvenuta. Buongiorno a voi. Allora, quanti sono i paesi dell'OPEC? Beh, vediamo se ho indovinato, 13. Mi dispiace Marisa, proprio ha sbagliato di poco, ma non ce l'abbiamo fatta. Comunque il ritenti sarà più fortunata, ma secondo me Nicoletta un libro glielo manda lo stesso. Ma certo, sono la donna di cuore, vuoi che non mandi un libro a Marisa. Marisa, arriva. Nicola, grazie a lei. Posso chiedere velocemente, sì, magari qualcosa alla sua gentile ospite? uno spunto. Diamanti, dove si possono prendere? Come No. Allora, Marisa, grazie. Sì, vabbè, possiamo, se vuole, Monica Defende può rispondere su tutto. Anche lì, altra puntata che in realtà mi chiedono in tanti da tanto tempo. C'è un grande dibattito sul tema diamanti come strumento di investimento, perché qua hanno avuto un boom incredibile. E poi c'è tutto il partito dei detrattori di questa modalità, perché dicono non sono liquidi, se li volete rivendere la banca non ve li riprende. Quindi questo per dire in molta sintesi la questione di conflitto. Però Marisa, se le interessa ci torneremo. E comunque il problema è legato alle materie prime, anche quando diciamo comprate oro, che cosa vuol dire comprare l'oro fisico? Esatto, le società aurifere, i fondi di investimento specializzati, miniere. Esatto. Generalmente si fa è guardare agli ETF, quindi sono questi fondi che investono in materie prime e quindi rimangono, soddisfano quei criteri di liquidità che li rendono un possibile investimento. Però ci torneremo, Marisa. Maria da Napoli, buongiorno. Maria. Buongiorno. Eccoci a lei. Maria, ha studiato l'OPEC stamattina, le abbiamo fatto fare proprio una sì, mattinata. Però scusi, io chiamo da Bari, sono Maria da Bari. Maria, sai che ogni tanto noi trasferiamo le persone. Chissà mai che nella sua vita arrivi anche Bari, non si può dire. Siamo anche Napoli. Un po' streghe, comunque è Napoli. Maria. No, è Bari. È Bari. Maria. Sì, pronto. Eccoci sì, a lei. Andiamo. Quanti sono? Allora, io dico 12. E lei dice bene, grazie. Bene. Abbiamo sbagliato la città, ma lei ha detto giusto il numero, magnifico. Però c'era anche Nicola da Bari che voleva intervenire e darci i paesi. Nicola, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Quanti ce ne voleva dire? La sento male, pronto? Proviamo a ricontattarla allora, Nicola, non si preoccupi. Stamattina dal meridione, proprio tra sbaglio di città e ci sentono male, insomma. Dottoressa Defende, l'ho lasciato per ultimo questo argomento, ma in questi giorni è in assoluto il primo sulle pagine di cronaca finanziaria dei principali quotidiani. Il caso Deutsche Bank. Allora, deve pagare questa multa da 14 miliardi alle autorità americane per chiudere un contenzioso legato ai famosi mutui subprime. La crisi partita tra il 2007 e il 2008 è partita a causa di questa crisi. Sì, ecco, altro che rateizzare con l'Agenzia delle Entrate, hai voglia. Allora, dobbiamo temere questa situazione, ci dica un po' quanto può sbilanciarsi allora, su questo argomento. Partiamo da luglio, dallo stress test. Lo stress test ha evidenziato che la debolezza del sistema finanziario non è una caratteristica solo e peculiare dell'Italia, ma che coinvolge anche altri stati. Il problema di Deutsche Bank è il problema di tante banche in Europa: scarsa profittabilità, capitale inadeguato, elevati costi, mancanza di una strategia, e a questo si è aggiunto il carico da 90 della multa di 14 miliardi di dollari. Loro hanno un fondo per le riserve che ne vale circa la metà, quindi non sarebbero in grado di poter far fronte a questa perdita. E quindi qualcuno deve farlo per loro. Si molto probabilmente di... però questa cifra verrà rivista, forse non di un quarto o un quinto come si auspicano da Deutsche Bank, ma qualcosa a metà. E a quel punto ci sono le tre strade percorribili: il bailout, quindi entra lo Stato, cosa che mi sembra politicamente difficile visto che è stato vietato all'Italia quando se ne è parlato. Si potrebbe andare al bail-in, quello che è previsto dall'Unione Europea stamattina, o la terza soluzione potrebbe essere percorrere la strada che si è percorsa in Italia, quindi con aiuti privati. Parlava oggi Erdogan che la Turchia potrebbe partecipare a un consorzio piuttosto che a un fondo sovrano. Il problema c'è, non è solo della Germania. Da italiana forse mi fa anche un po' piacere che si sia esacerbata la situazione, ma questo è una malattia del sistema bancario europeo che va risolta con misure di carattere europeo. Certo, quindi comunque già ci ha dato un'indicazione sulle strade potenzialmente percorribili per risolvere questa preoccupante crisi tedesca. Grazie a Monica Defende. Grazie per essere stata. Buon viaggio a Washington, la invidiamo molto, a presto. Grazie, a presto. Cuore e denari.